Essere e benessere di Nicoletta Carbone. La sigaretta elettronica mi ha trasformato la mente. Non sono più dipendente e adesso il presente lo vivo con lei. La sigaretta elettronica mi fa sigarette sonare. Elettroniche, dove eravamo rimasti? E voi nel frattempo le avete provate, le state provando, siete rimasti fedeli alle bionde? 800 24 0024. In linea con noi Cosimo Colasanto, giornalista della testata amica Salute 24, autore del libro Come smettere di fumare con la sigaretta elettronica. Cosimo, ciao, bentornato. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. C'è chi le fuma per smettere di fumare, chi per continuare a farlo, magari senza sensi di colpa, però Cosimo, il boom dei primi mesi dell'anno, il successo delle sig sembra un po' evaporato tra tasse, allarme, divieti. Beh, in effetti è così, diciamo. Gli svapatori sono circa 500.000 in Italia, questi sono gli ultimi dati forniti anche dall'Istituto Superiore di Sanità. Potrebbero essere molti di più, molti sono passati sicuramente al consumo delle sigarette analogiche o, come li chiamano gli svapatori, le catramose, alle elettroniche, riuscendo in alcuni casi a ridurre drasticamente il consumo di tabacco e in alcuni casi a annullare completamente l'utilizzo delle sigarette tradizionali. Quindi rispetto all'inizio dell'anno sicuramente c'è stato un rallentamento, anche perché ci sono state molti divieti, alcuni allarmi, alcune notizie, e poi c'è stato l'arrivo della maxi tassa del 58,5% sui prodotti, che scatta poi dal 1 gennaio 2014, a meno di novità. Quindi ci sono stati dei momenti, diciamo, difficili sia per gli svapatori sia per i rivenditori di sigarette elettroniche. Qui in studio con noi abbiamo il dottor Roberto Boffi, quello che noi presentiamo ormai da anni come il nostro dottor antifumo, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e direttore del Centro Antifumo. Buongiorno. Buongiorno e bentornato. Sigaretta elettronica a tempi duri? Beh, tempi affascinanti anche, perché è un fenomeno che potrebbe essere non tanto e non solo un business per chi le vende, ma anche una ottima opportunità per chi le usa per cercare di danneggiarsi meno e soprattutto per smettere di fumare. Elettronica, analogica e digitali, perché questi tre termini? Ci sono delle differenze o è fumo negli occhi? Il rischio c'è perché è un mercato ancora molto fluido e molte delle sigarette elettroniche o dei nuovi modelli che vengono definiti digitali sono stati acquistati e vengono ora prodotti da multinazionali del tabacco, per cui anche al congresso europeo di pneumologia di Barcellona, a cui ho partecipato, è stato molto sottolineato il fatto di stare attenti, per noi medici, per noi pneumologi in particolare, a incoraggiare l'uso di sostanze che vengono create dalle multinazionali del tabacco. E noi come possiamo capire che dietro quella sigaretta in realtà c'è una multinazionale? Beh, ripeto, il mercato è molto difficile, ogni stato, ogni continente sta scegliendo delle soluzioni più o meno prudenti e attendistiche. L'Europa, ad esempio, in questo momento ha scelto una posizione prudente con degli warnings, con delle avvertenze per i medici. L'Italia, in questo decreto legge, ha dato uno scossone, direi abbastanza importante, all'uso della moda delle sigarette elettroniche, per cui, come diceva il collega suo, dall'anno prossimo ci sarà un divieto d'uso nei luoghi pubblici di sigarette elettroniche, un divieto di fare pubblicità, un divieto di produzione in Italia. Quindi sicuramente chi le produrrà e chi ha veramente interesse a fare un prodotto buono e che migliori la salute dovrà adeguarsi e magari migliorare anche la ricerca. 800 24 0024, fumate, non fumate, svapate, elettronico, digitale, analogico, tradizionale, bionda, e che ne dite dei divieti? De Marchi, non ho da accendere, hai del fuoco? Sai, dovresti avere più rispetto per i leopardi. Di nuovo con leopardi, a professore, e basta. Ma il leopardi potrebbe farti capire meglio l'animo femminile. Vietato fumare dentro e fuori la scuola, il divieto è naturalmente esteso anche alle sigarette elettroniche. La norma renderà dura la vita al milione circa di fumatori in erba, perché secondo i dati uno studente su tre alle superiori fuma. Dottor Boffi, lei conferma? Ah sì sì, purtroppo si fuma tanto anche a scuola. Però anche i professori, sì, oltre a rispettare il divieto, dovranno anche un po' guardare, annusare l'aria ai ragazzi. Le sanzioni sono piuttosto severe. Cosimo, mi confermi 55 euro? Sì, in realtà sono appunto le sanzioni, i professori dovranno fare un po' i vigili all'interno delle scuole, ma soprattutto anche degli spazi di pertinenza delle scuole, quindi i cortili, le aule, e diciamo alcune associazioni anche rappresentative dei presidi hanno, come dire, criticato questa impostazione, perché è sicuramente difficile controllare i ragazzi e imporre anche delle regole. Ovviamente diciamo si aspettava questo tipo di regolamentazione, perché sappiamo che soprattutto per i giovani è importante tutelare la salute, e tra l'altro i ragazzi spesso sono molto fantasiosi anche nell'uso di strumenti innovativi, e fa parte questo tipo di divieto anche dell'estensione che il decreto legge 76, che poi è stato convertito in legge, ha portato anche al divieto pubblicitario e di promozione delle sigarette elettroniche, equiparandolo sostanzialmente a quello dei tabacchi lavorati, delle sigarette tradizionali, anche se non cita direttamente le sigarette elettroniche, ma dispositivi meccanici ed elettronici, quindi in realtà diciamo c'è ancora un po' di confusione, bisognerà aspettare delle regole più precise, ma le sanzioni sono queste. Abbiamo Claudio che ci chiama da Caserta all'800240024, naturalmente come sempre potete scriverci e seguirci su Facebook e su Twitter. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, sì. Volevo praticamente dire la mia esperienza in merito alla sigaretta elettronica. Sì. Io fumavo, per mia fortuna, fumavo dall'età di 15 anni. Dico fumavo perché grazie alla sigaretta elettronica ho smesso. Ha smesso. Mm-hmm. Ho smesso perché praticamente acquistai questa sigaretta elettronica. Non ero convinto del mio acquisto, in quanto già avevo provato in tutti i modi di smettere di fumare, però non c'ero mai riuscito. Sì. Invece poi con l'uso della sigaretta elettronica, mm-hmm, e poi tra l'altro non ho fatto un utilizzo breve, non è che l'abbia usato oppure continuo a farlo, ho smesso subito. Diciamo che comunque ci vuole tanta forza di volontà comunque per smettere, non è che la sigaretta ha provvisto di far togliere il vizio di fumare, però in un certo senso ti dà un incentivo in più per smettere, secondo me. E quindi con lei ha funzionato, Claudio, ed è quello che si augurano i fumatori che cercano di adottare, di fumare la sigaretta elettronica per allontanarsi da questa dipendenza. Ci sono tanti metodi, lo sappiamo, per smettere di fumare. Tra l'altro, dottor Boffi, c'è su Lancet, che è una rivista molto prestigiosa, è stato pubblicato uno studio che ha messo a confronto la sigaretta elettronica con i cerotti, e dello studio si è parlato molto al convegno di Barcellona. Io, sì, so che lei ha conosciuto di persona, sì, anche l'autore di questo studio che ha fatto molto discutere. Sì, sì, sì, ci siamo scambiati il biglietto da visita. Perché, l'ho visto anch'io prima della diretta. Non è facile. Devo dire, un biglietto da visita molto fitto, sì, vero? Sì, sì, sì, un molto, po' molto elegante, sì. Beh, elegante, insomma, neozelandese. No, gli ho fatto i complimenti perché, come dicevo prima, non è facile fare ricerca sulle sigarette elettroniche in un momento così ancora confuso. E invece è uno studio molto importante sia per la numerosità, perché sono più di 600 fumatori, uno studio randomizzato, quindi uno casualmente veniva inserito in uno dei tre bracci, cioè sigaretta elettronica con nicotina, sigaretta elettronica senza nicotina o sigaretta normale. E questo, se vogliamo fare un po' le pulce allo studio, loro stesso lo dicono, è un piccolo difetto, perché chi è stato sorteggiato nel braccio con la sigaretta normale o con la sigaretta senza nicotina forse si è sentito un po' meno motivato, un po' deluso, ecco. E sta di fatto comunque che la sigaretta, no scusate, il braccio, uno dei tre bracci era col cerotto alla nicotina, quindi un prodotto già molto noto. Ecco, da molti anni in commercio, quindi con meno appeal, esatto, se vogliamo. Anche perché ricorda meno la gestualità, la gratificazione orale rispetto alla sigaretta elettronica. E quindi comunque è uno studio positivo, cioè una buona percentuale di persone ha smesso di fumare e soprattutto una alta percentuale di persone ha molto ridotto il fumo con la sigaretta elettronica. Quindi è uno studio però incoraggiante. Però c'è anche chi continua, dice, non dal tradizionale, passa le sig e continua. Ma Cosimo, non è neanche poi semplice scegliere la sigaretta elettronica giusta. Come si fa soprattutto a scegliere quella che fa per noi? Poi affronteremo nicotina e senza nicotina, ma insomma come ci si orienta e soprattutto come facciamo ad essere sicuri di non magari acquistare un prodotto con dei difetti anche pericolosi per la nostra salute? Certo, secondo me il modo migliore è quello di fare tante domande, andare in un negozio specializzato, chiedere, cercare di informarsi il più possibile. Quando dall'altra parte si trovano delle persone competenti e le persone danno delle risposte, quindi sì, i titolari preparati del negozio di sigarette elettroniche, si capisce che c'è, come dire, attenzione al prodotto. Ci sono delle regole fondamentali, prima di tutto bisogna guardare con attenzione che ci sia il marchio CE, è il marchio europeo che stabilisce gli standard di sicurezza, quindi bisogna fare attenzione ai prodotti tarocchi che ancora ci sono nel sottobosco del mercato, quelle che ad esempio riportano la sigla Chinese Export in realtà non hanno valore, devono essere assolutamente lasciate dove stanno, nei cesti di qualche negozietto cinese. E poi bisogna ovviamente cercare di trovare e tentare quella che in qualche modo soddisfa di più gli aspetti, dalla gestualità, che è uno degli aspetti ovviamente più importanti, quindi il peso della sigaretta, gli aspetti di maneggevolezza, e tentare di capire con quale concentrazione, tenore di nicotina si può iniziare, e nel caso appunto si voglia cercare di ridurre o smettere l'uso della sigaretta, diminuirlo in maniera graduale, perché sappiamo che nella sigaretta elettronica si può utilizzare anche liquidi, si possono utilizzare liquidi che non hanno nicotina ma soltanto aromi, che sappiamo sono i più diversi possibili, dalla frutta fino al caramello, al caffè, la liquirizia. Arrivano alcuni messaggi: ho provato la sigaretta elettronica, mi pizzica in gola. Un altro messaggio di Lorella: mi provoca una sorta di nausea e per questo sono tornata. Ce ne stanno capitando diversi di questi casi, soprattutto noi pneumologi e gli asmatici. Ad esempio il vapore, indipendentemente dalla presenza o meno e dalla quantità di nicotina, a volte irrita la gola, può dare broncospasmo, quindi rivolgersi a un medico per farsi consigliare, perché anche la quantità, l'assunzione di nicotina che si inala col vapore è condizionata dal tipo di erogatore e dalla forza che ci mettiamo nell'inspirare. Ecco, a proposito di nicotina, il fatto di poter dosare la nicotina nelle sig può aiutare a ridurre la dipendenza oppure si rischia di assorbirne di più? Ma è vero che molte persone si sentono coccolate, accudite nei negozi, per cui questi consigli a volte da dei negozianti bravi vengono somministrati in maniera corretta, però perché no, ci si può parlare anche col proprio medico di famiglia, col medico del centro antifumo, anche se noi in questo momento non siamo autorizzati a prescriverle, ma aiutare le persone, accompagnare le persone in questo processo non è un nostro sfizio, è un nostro dovere. E comunque mi risulta che sono allo studio dei nuovi modelli sigarette elettroniche in cui verrà limitata l'assunzione oraria di nicotina, quindi questo potrà essere un ausilio importante per evitare di diventarne dipendenti. Cosimo, ma una delle domande che circola più di frequente nei forum è: quanta nicotina si inala effettivamente con le sig? Poi diamo la linea subito a Margherita, che intanto salutiamo, che ci chiama dalla provincia di Latina. Cosimo. Beh, questo è effettivamente uno, diciamo, dei problemi e anche dei vantaggi della sigaretta elettronica, nel senso che, come dicevamo e come diceva giustamente il dottor Boffi, ogni modello ha una potenza diversa, quindi dipende anche dal modo con cui si aspira dalla durata della boccata, dalla frequenza della boccata, quindi in realtà è molto complicato stabilire questo parametro. Diciamo che alla fine la cosa interessante, ed è recentemente stata stabilita da uno studio, è che probabilmente con le SIG si può assumere e inalare anche fino a un terzo in meno della nicotina rispetto alla sigaretta tradizionale, però è un dato che ovviamente va preso con le molle e va sicuramente certificato. Obiettivo della puntata naturalmente è aiutare le persone che stanno accarezzando l'idea di smettere, di trovare il coraggio, la determinazione per fare il primo passo e poi confrontare anche i metodi, dare dei suggerimenti. Naturalmente abbiamo iniziato con la sigaretta elettronica, ma parleremo anche di altri metodi per smettere di fumare. 800 24 00 24, abbiamo Margherita dalla provincia di Latina, benvenuta, buongiorno. Buongiorno, salve. E sono una fumatrice dall'età di 21 anni, ne ho 39 e sono passata nel tempo, durante il periodo studentesco, proprio per questioni economiche, dalla sigaretta al tabacco. Fumavo circa un pacchetto e mezzo di sigarette, ora fumo all'incirca una ventina di sigarette di tabacco sottili. Ho provato ad aspirare dal queste sigarette elettroniche perché le hanno acquistate amici, che però contemporaneamente non hanno smesso di fumare, anzi, cioè utilizzavano la sigaretta elettronica e anche la sigaretta normale. Io ho avuto una sensazione sono purtroppo anche un'asmatica per allergie. E ho provato, come ho sentito ora anche in trasmissione, pizzpori e forte giramento di testa, cosa che non ho con la sigaretta tradizionale. Esatto. E quindi volevo sapere, appunto, avete già parlato ora in questi minuti proprio del quanta nicotina si assume nella giornata rispetto a quello che può essere un potenziale pacchetto di sigarette. La percentuale, come si verifica effettivamente rispetto al liquido immesso per chi ha bisogno di nicotina e non ancora di surrogati come me? Dottor Boffi, bella domanda. Sì, Margherita? Purtroppo non ci sono delle equivalenze standardizzate ancora. Di solito i modelli che vanno per la maggiore contengono hanno delle cartucce a nicotina che sono da 16, da 9, da 0 mg. La farmacocinetica, però, l'assorbimento nel sangue, nel cervello della nicotina contenuta nel vapore è diverso, un comportamento diverso. Sicuramente non raggiunge dei picchi elevati come quello della sigaretta della nicotina liberata dalla combustione di una sigaretta normale. Si inizia a fumare all'inizio, la prima sigaretta, io non fumo, però mi viene detto spesso dai miei pazienti che stai male quando ti offrono la sigaretta da ragazzino, così. E poi dopo gradatamente impari a fumare, quindi probabilmente anche a svapare bisogna imparare gradatamente. Ecco, una cosa preoccupante però voglio dire, che sempre al congresso di Barcellona è stata detta, uno studio di un'università americana, quella di Harvard, però sull'Europa, è stato visto che i consumatori, gli utenti di sigarette elettroniche in Europa dai 15 ai 24 anni è triplo rispetto ai cinquantenni, quindi è una moda che ha preso piede soprattutto tra i giovani, e io non vorrei che una buona percentuale di questi, perché si è passato il concetto, abbia cominciato così e passi poi alla sigaretta vera. Quindi Margherita, in sostanza, cosa può fare? Beh, dirà smetta. Non è un metodo, cioè quello che è successo a lei, oltretutto in quanto asmatica, sì, le fa capire che evidentemente inalare sostanze irritanti con o senza nicotina fa a pugni con la sua patologia. Quindi si rivolga a un medico, e ci sono già dei prodotti validati per smettere di fumare che non passano dai bronchi. Fabrizio, buongiorno, ci chiama da Firenze, benvenuto. La ringrazio, ecco, la mia è una domanda un po' curiosa e... Ecco, ringrazio per l'opportunità che mi dà, perché io ho smesso già da diversi anni di fumare. Come ha fatto? Ho usato le gomme alla nicotina, arrivando poi dopo al dosaggio minimo, che sono 2 mg a gomma. Sì. Ora, che cosa è successo? Praticamente io, grazie anche a lavoro in ospedale, quindi mi sono fatto consigliare anche al centro dei tumori e quant'altro, Praticamente io la gomma la suddiviso, la taglio, la suddivido in 10 microgomme, sì. quindi 2 milligrammi diventano 0,2 milligrammi e poi li distribuisco nell'arco della giornata, quindi sarebbe una pastiglia al giorno. Ora, io so che non ci sono studi sull'ingerenza della nicotina attraverso la gomma nel lungo termine e quant'altro, però è anche vero che una pastiglia, una gomma, 10 microgomme, come si voglia chiamare, sì. comunque è una gomma al giorno, diciamo che dovrebbe essere innocuo. Domando, dovrebbe essere innocuo. Domando. Fabrizio, domanda e il dottor Boffi risponde. Allora, intanto saluto il radioascoltatore. È vero, non ci sono studi sull'uso della nicotina a lungo termine. Peraltro la nicotina non è una sostanza di per sé cancerogena, ma precancerogena sì. Quindi a lungo andare, soprattutto a livello del cavo orale, della lingua, del palato, potrebbe infiammare e magari predisporre anche a delle malattie più gravi. Quindi il mio consiglio, se lui sta usando terapia nicotina pur a dosaggio così basso da lungo tempo, è ogni tanto di fare un controllo da un dentista, da un odontoiatra. Essere e benessere. Sono tue le sigarette? No, erano già lì quando mi sono seduto. Ah, tu non fumi, no? No. No, ho smesso. Grazie al cielo, neanch'io. Un taglio netto. Basta veleno, ormai sono 25 anni. Ah, mio Dio. Finito. Sono pieno di energia. No, io sono rinato. Poi da quando ho smesso, insomma, tutto è più... Sì, è tutto più a fuoco, pazzesco, è vero. È vero? Per me è uguale. Smettere conviene sempre, dottor Boffi, possiamo dire che non è mai troppo tardi. I vantaggi sulla salute sono misurati e dimostrati sia nel breve che nel lungo periodo. Allora, chi smette ci guadagna anche in anni di vita. Sì, c'è una recente campagna antifumo australiana molto carina che ho visto su internet che dice: appena smetti di fumare inizi a guarire. E quindi poi cita il famoso miglioramento già dopo 6-8 ore con il dimezzamento del monossido di carbonio, dopo 5 giorni che la maggior parte della nicotina è espulsa dall'organismo, dopo una settimana il senso del gusto e dell'olfatto migliorano, dopo 3 mesi la funzionalità polmonare che comincia a migliorare, dopo un anno il rischio cardiaco che si dimezza. Per cui non ci sono solo i tumori, ovviamente, che è oggetto dei miei interessi maggiori lavorativi, lavorando in sede di tumori, ma ci sono anche questi benefici. E a Barcellona è stato rimarcato invece, per quanto riguarda i tumori, che anche i nuovi farmaci oncologici per le neoplasie polmonari, farmaci biologici molto promettenti per i malati con tumore, necessitano assolutamente l'astensione dal fumo. Quindi il fumo frega anche le cure per le neoplasie. Allora, abbiamo Angelo dalla provincia di Bari, Claudio da Milano, buongiorno a tutte e due. Angelo, benvenuto. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Grazie Angelo. Si tratta di questo. Io dal 93, io ho fumato dalla giovane età per 15 anni circa, poi dal 93 ho smesso di fumare e dopo un anno ho ricominciato a fumare, ma rigorosissimamente 2 sigarette al giorno, una pranzo e una cena. Data l'entità, ovviamente lo riconoscerete, molto limitata, sì. e costante nel tempo, quindi riesco a non perdere questo punto di vista che mi sono prefissato, mi chiedo, ma come si fa a quantificare quanto è importante valutare se smettere, visto che a queste 2 sigarette ci tengo tantissimo, sì. cioè io fumo queste 2 sigarette che mi gratificano veramente tanto durante il giorno, sì. Quanto è importante decidere se eliminare anche queste oppure se sono assolutamente tollerabili? Quindi ecco, un piccolo piacere quotidiano controllato, misurato. No. Il dottor Boffi è già qua, ma ancora prima che io parla già è lì che scrolla la testa, no. No, perché quello che fa male, mi spiace dirlo all'ascoltatore che saluto naturalmente, gli faccio i complimenti perché ha drasticamente ridotto, ma dico sempre che quello che fa male del fumo di tabacco è l'uso, non solo l'abuso. Quindi 2-3 sigarette al giorno sono equiparate a 8 ore di esposizione al fumo passivo in un ambiente confinato. E quindi voi sapete quanto io studio, quanto io combatto il fumo passivo, non solo in ambienti chiusi, ma ormai anche all'aperto, in ambienti affollati, tipo i cortili delle scuole di cui dicevamo prima. E quindi l'ascoltatore è come se fosse esposto al fumo passivo 8 ore al giorno, quindi quelle 2 sigarette fanno sicuramente male, anche se molto meno male che 10, 20 o 40. Anche il sigaro fa male? Sì, soprattutto alle alte vie, alla gola, alla bocca, perché il black tobacco è più grossolano, quindi si deposita meno in profondità nell'apparato respiratorio, comunque fa male anch'esso. Abbiamo Claudio che ci chiama da Milano. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Vada Claudio. Sì, buongiorno. Sì. Niente, volevo semplicemente portare la mia esperienza, che è di ex fumatore, e di essere riuscito a smettere da solo senza nessun tipo di ausilio. Bravo Claudio, ha deciso. Cosa ha fatto? Ci racconti. Semplicemente ho cercato di lavorare sull'autostima. Perché credo che una persona sicuramente mi ha portato a far riflettere su questa cosa. Il guardare la sigaretta, in sostanza, chiaramente con tutti i danni che sappiamo che comporta, il domandarsi se una cosa di così pochi grammi può renderci schiavi, cioè noi che siamo esseri umani intelligenti, e abbiamo facoltà, abbiamo capacità infinite, e poi arriviamo a renderci schiavi di una cosa di pochi grammi, che sappiamo benissimo ormai, grazie agli studi, dei danni che crea. Per cui credo, sono convintissimo, perché proprio ho provato sulla mia pelle, che certamente quando ho smesso, perché ho fumato per oltre 35 anni, per cui quando ho smesso è chiaro che qualche problema fisico, qualche risentimento c'è stato a livello fisico, però cioè, semplicemente lo prendevo come se avessi una malattia che mi ero preso a causa di qualche motivo, perché una cosa che dovevo accettare. Questo è il messaggio che vuole mandarci il nostro ascoltatore, che può magari accendere la voglia di smettere in chi ci sta ascoltando. Grazie Claudio. 800 24 00 24. Cosimo, ma quanta strada si è fatto da quando nella lontana Cina? È questo il paese dove è nata la sigaretta elettronica? Esatto, sì, il paese in cui è nata la sigaretta elettronica è la Cina. Si racconta di questo farmacista leggendario ormai, che è un leak, che avrebbe ideato una prima sigaretta, un prototipo che era un po' diverso dalla sigaretta elettronica attuale, dai svariati modelli che ci sono in commercio. La prima era addirittura ad ultrasuoni, secondo le storie, perché poi le biografie sono un po' fumose in questo caso, sarebbe nata perché appunto il padre di un leak era morto di cancro al polmone, e quindi lui si era messo alla ricerca di questa sigaretta alternativa che facesse meno male. E da lì parte la stragrande maggioranza delle sigarette. Paradosso vuole che in Cina la sigaretta elettronica sia vietata, in realtà perché le sigarette costano pochissimo, quindi viene fatto spesso questo raffronto rispetto al Big Mac, costa meno di un Big Mac, quindi in realtà un pacchetto è alla portata di tutti, e quindi ovviamente qui si parla anche di interessi economici rispetto al commercio delle sigarette. Se volete saperne di più, abbiamo sulla pagina del nostro programma, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, proprio la storia della nascita della sigaretta elettronica, che abbiamo estratto da Come smettere di fumare con la sigaretta elettronica di Cosimo Colasanto. Abbiamo tempo per sentire Attilio che ci chiama da Verona, rapidamente prima delle informazioni sul traffico. Attilio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, sono Attilio di Verona, grazie per aver fatto intervenire. Ecco, volevo raccontare brevemente la mia esperienza sulla sigaretta elettronica. Sì. Io mi sono avvicinato nel 2008, proprio agli arbori, quando c'erano i primi modelli, e devo dire che con un po' di volontà, questa ci vuole sicuramente per affrontare la sigaretta elettronica, c'erano di buonissimi risultati, perché si va a togliere quello che dopo 28 anni, come ero io, si possono avere delle soddisfazioni. Da allora, dico di più, la qualità dei liquidi che ho provato da allora fino adesso è migliorata tantissimo, perché devo dire che se fossero stati quelli che c'erano adesso, fossero quelli di allora, sicuramente le aziende hanno fatto dei buoni risultati anche come qualità dei liquidi, a livello di affidabilità voglio dire, e ci sono tantissime aziende italiane che ci lavorano, questo mi dà ancora più sicurezza. Io ancora svapo ancora adesso qualcosina, ma molto di meno tra l'altro, molto molto di meno, ho lasciato. Per finire, basterebbe anche andare a informarsi, io ci vado, vedo degli studi che volevo allacciare al discorso del dottore, non ricordo il nome di prima. Dottor Boffi. Esattamente, questi studi, ce ne sono svariati studi che non dico che siano la manna che viene dal cielo, però ci sono anche aziende, io vedo, mi informo, perché basterebbe anche informarsi un po' di più a volte, si è raggiunti, dicono della nocività che praticamente è ormai inesistente, mi spiego, sicuramente ci sarà nel lungo periodo, come dice giustamente il professore, da andare a vedere, per però anche la quantità di nicotina assorbita, uno studio del laboratorio americano, è veramente da leggere. Dottor Boffi, Attilio, prima, però rapidamente, ha ragione? Sì, meno sicuramente. Sicuramente, però non mi bastano. Io lavoro in un istituto di ricerca, quindi devo dare certezza ai miei pazienti e noi promesso che nei prossimi mesi vi potremo dare degli importanti risultati sull'impatto ambientale delle sigarette elettroniche confrontate con quelle delle sigarette normali. Andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade, e poi ritorniamo subito dopo insieme a chi di voi mi sta chiedendo il titolo del libro di Cosimo Colasanto. Ripeto, è Come smettere di fumare con la sigaretta elettronica. Essere e benessere. Dai, che oggi magari smettiamo. Ci sono tante buone ragioni per farlo, per la salute, per guadagnare in benessere, per in anni di vita, per rispettare la persona che ci sta accanto. In questa puntata non abbiamo affrontato il tema del fumo passivo, ma il dottor Boffi mi conferma che il fumo passivo è assolutamente pericoloso e nocivo. Una sostanza sicuramente cancerogena. E anche direi che possiamo smettere per fare un piacere all'ambiente. L'ambiente infatti ringrazia. In linea con noi abbiamo il professor Giacomo Mangiaracina, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione, docente all'Università Sapienza di Roma e direttore della rivista Tabacologia. Professore, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei sta conducendo uno studio per misurare l'impatto ambientale del fumo di terza mano, ossia le sostanze che restano per anni nell'ambiente, impregnandole su pellettili, i muri, i vari materiali e gli altri oggetti di casa. Che cosa ci racconta? Direi che abbiamo fatto molto di più. Quando si parla di impatto ambientale del tabacco, bisogna considerare una visione a 360 gradi, cioè nel senso che parliamo persino di deforestazioni, parliamo persino di estinzioni etniche, non dimentichiamo che i produttori del tabacco cercano sempre terreni vergini per produrre tabacco di prima qualità, perché in un terreno dove hai coltivato una volta tabacco devi poi aspettare alcuni anni per ricoltivare tabacco, e quindi è dispendioso per l'ambiente, certo. Certamente, quindi il tabacco ha prodotto anche povertà nelle popolazioni, perché è andato a creare deforestazioni. Per esempio il Malawi ha deforestato il 30% delle loro foreste per lasciare posto alle piantagioni di tabacco. Insomma, quindi dire impatto ambientale del tabacco è qualcosa che va veramente oltre la contaminazione da fumo passivo. E con l'Enea, per esempio, abbiamo fatto uno studio sulle cicche di sigaretta, per esempio, no? Abbiamo analizzato il contenuto di una cicca, e siccome gli italiani fumano circa 60 miliardi di sigarette l'anno, 60 miliardi? Me lo faccia scrivere qua, non so scrivere neanche tutti questi zeri. 60 miliardi. Miliardi di sigarette l'anno. Qualcuno dice no, è un po' meno, sono 50 miliardi, insomma. Allora, diciamo che una cifra da 50 a 60 miliardi di sigarette l'anno. Benissimo, allora basta moltiplicare il contenuto dei vari veleni, considerando che il tabacco ha oltre 4.000 sostanze, tra condensato, particolato, sostanze gassose, microparticolato. Moltiplicando la quantità di sostanza tossica contenuta in una cicca di sigaretta per 50, per 60 miliardi, abbiamo un impatto impressionante. Se parliamo di tonnellate di nicotina nell'ambiente ogni anno, e poi considerato il fatto che la cicca di sigaretta è un rifiuto oltre che tossico scarsamente biodegradabile, significa che permane nel terreno da 2 a 5 anni, si ha un accumulo, E questo è il fatto per cui nel bacino del Mediterraneo il rifiuto più presente in tutti i fondali, in tutto il fondale del Mediterraneo, sono proprio le cicche di sigaretta. Quindi siamo veramente ad una situazione catastrofica. Professor... giusto una piccola nota in calce, che proprio il 31 maggio scorso, in occasione della giornata mondiale senza tabacco, in una tavola rotonda all'Istituto Superiore di Sanità, dove ero anche relatore, ho trattato questo argomento, cioè si parlava della sigaretta elettronica, e alla fine ho concluso: tutto questo con la sigaretta elettronica non esisterebbe neppure. E questo è infatti che volevo sapere da lei. Quindi, detto tutto questo della sigaretta tradizionale, la sigaretta elettronica si salva in questo confronto? Perché solitamente si parla di tossicità, di danno individuale, però è bene avere una visione allargata del problema e parlare di impatto ambientale anche a livello mondiale, quindi a livello nazionale, a livello di territorio. Vogliamo parlare anche del decoro urbano? Allora, io vivo a Roma e basta circolare per le strade di Roma per vedere le cicche a terra dappertutto. Io non so come la situazione a Milano, uguale, ma vi posso garantire che le cicche, ma persino i pacchetti di sigarette si trovano buttati per terra. Ma le cicche sono dappertutto. Strada che vai, cicca che trovi. Professore, grazie per essere stata con noi. Io quindi chiudiamo in bellezza. Ringrazio il professore per essere stato con noi, il Cosimo Colasanto, che è intervenuto, collega di Salute 24, la nostra testata amica. Grazie Cosimo. Grazie agli ascoltatori. Ecco, guarda che arrivano già diversi messaggi dagli ascoltatori che dicono: quando il prossimo libro? Vuol dire che l'interesse sulla sigaretta elettronica è comunque alto. Mettiti sotto, Cosimo. La storia continua. La storia continua. Bravo. Dottor Boffi, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata allora a chi ci ha seguito. Noi ci sentiamo come sempre domani. In regia, alla parte tecnica, Gianmarco Ferronato, Laura Vanossi in redazione. A domani. Essere e benessere.